Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità. Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale. Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, è sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trova ad essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere ancora. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora. E allora, buongiorno a tutti e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, appunto, di Radio Onda Rossa, va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16 ed oggi è mercoledì 11 di marzo e quindi buona giornata a tutti e tutte. Sono le 15:04 minuti primi e iniziamo questa trasmissione. Dunque, la volta scorsa abbiamo dato uno sguardo a ciò che avviene nelle carceri americane a proposito delle mobilitazioni che ci stanno in alcuni settori di quel paese contro appunto questi ancora prigionieri politici che ci stanno delle Pantere Nere, questo movimento degli anni 70 che ancora la vendetta dello Stato americano è stata così feroce che ancora a distanza di 40 anni li tiene in carcere. La vicenda di questi detenuti, abbiamo visto il caso di Maroon, questo appunto militante delle Panterne Nere tenuto in carcere da 40 anni e di cui tra l'altro 20 anni all'isolamento, quindi è venuto fuori questo problema dell'isolamento che è sempre più usato per intimorire come forma di violenza, di tortura nei confronti dei prigionieri di qualunque tipo e che appunto sempre più però è dichiarato tortura vera e propria, quindi non dovrebbe essere usato, però appunto tra quello che si dovrebbe fare e quello che si fa, sapete, ce ne corre la mobilitazione delle persone, perché l'isolamento viene fatto, è una di quelle cose che del carcere dà proprio l'indicatore. L'isolamento viene praticato di più nella misura in cui c'è meno la pressione esterna contro le galere. Se c'è pressione esterna contro le galere, la gente in galera rimane, non è che con le pressioni a livello attuale puoi fare uscire la gente, però puoi mantenere appunto frenare gli impulsi vendicativi propri del carcere, che si danno appunto in isolamento, pestaggi e così via. Questo è gli elementi, diciamo, più alti della carcerazione americana, come appunto quelli delle Panter Nere, ben rappresentano però l'andazzo di tutto il carcere statunitense, che punisce in maniera esemplare, vendicativa e feroce coloro che si sono ribellati, proprio coloro, i sovversivi, i rivoluzionari. Le Panter Nere volevano cambiare lo Stato americano, non solo raggiungere una propria indipendenza, anzi non era assolutamente quella, era proprio voler cambiare l'assetto capitalistico dello Stato americano. E quindi la ferocia nei loro confronti è al massimo livello, però poi ben rappresenta, è un po' come la punta dell'iceberg, e poi sotto a questo c'è l'iceberg, cioè le misure coercitive e punitive che si diffondono su tutta la popolazione detenuta e che hanno fatto crescere non a caso la popolazione detenuta degli Stati Uniti d'America in percentuale la più alta in assoluto del mondo. Sono circa 2,5 milioni di persone incarcerate dentro quindi le strutture penitenziarie e altri 2,5 milioni in controllo penale esterno, cioè semilibertà, sulla parola, libertà condizionale, tutte queste forme alternative al carcere. Quindi 5 milioni di persone sottoposte a controllo penale, una cifra altissima, è una percentuale la più alta che c'è in tutti i paesi del mondo, 10 volte superiore alla media europea, quindi che pure non scherza. Questa è la situazione e quindi è bene appunto vedere a volte anche le situazioni estreme, perché ti danno il senso di cosa si sviluppa a livello generale. Diciamo, il problema dell'isolamento è eterno in tutte le carceri, anche in Italia l'isolamento viene usato in maniera sempre più discrezionale, abbastanza discrezionale da parte delle autorità penitenziarie, come forma di pressione. Per esempio abbiamo visto nel caso degli ultimi arresti e anche i precedenti arresti per le mobilitazioni del movimento NOTAV contro l'alta velocità che rischia di devastare la Val di Susa, bene, è stato usato l'isolamento nei confronti di questi compagni e compagne detenute. Isolamento non che non necessitava dal punto di vista dei regolamenti esistenti, invece fu come forma di pressione, viene utilizzato come forma di pressione e vabbè, questo è un meccanismo che appunto soltanto la mobilitazione contro il carcere può rallentare fino a farlo sparire. L'altro elemento è quello dei pestaggi, questi sono i due punti diciamo più brutti, se vogliamo, perché usiamo questo termine, della coercizione penitenziaria. Per far stare buoni i carcerati ci stanno sostanzialmente due metodi: l'isolamento e i pestaggi, e poi via via tutti gli altri, però questi sono proprio il fulcro centrale. Di pestaggi se ne parla anche qui in Italia, perché è successa questa storia ormai da un po' di giorni anche su tutti i giornali, Appoggio Reale, che tra l'altro sappiamo da sempre è uno dei peggiori carceri italiani, sia per sovraffollamento, sia anche perché vecchia struttura, sia perché le squadrette sono state sempre presenti, pestaggi, l'isolamento, insomma, le oppressioni nei confronti della popolazione detenuta sono all'ordine del giorno. E qui è venuto fuori, c'è anche questa settimana, c'è sull'Espresso di questa settimana, trovate anche un articolo sulla famosa cella zero. La cella zero era la cella dove appunto venivano messi i cosiddetti non disciplinati e pestati da una certa squadretta. L'Espresso, è comparso l'articolo anche da altre parti nella stampa, vari articoli. L'Espresso, come al solito, essendo un giornale perlomeno è nato come giornale d'inchiesta, ne fa comunque una analisi proprio più lunga, una sorta di inchiesta, e quindi già l'aveva fatta qualche mese fa, adesso torna. E qui racconta anche da parte dei detenuti come descrivono ciascuno di questi picchiatori della squadretta. I detenuti gli affibbiavano un nomignolo a seconda delle, come dire, delle attitudini che aveva. C'era appunto quello che chiamavano il piccolo boss, il Melella, quello che Melella, perché gli, quanto si era, veniva per picchiare, quindi era tutto caricato, probabilmente con la pressione alta e probabilmente anche con qualche, non so, con qualcosa, perché se era caricato faceva le guance rosse, quindi questi piccoli, come dire, piccoli, questi soprannomi che venivano messi a seconda delle funzioni, delle attitudini che avevano questi pestaggi. Poi fatti più grave, appunto, raccontano di questi pestaggi molti detenuti usciti anche dal carcere, oppure poi intervistati, che raccontavano di questi pestaggi che tra l'altro l'entrata in questa cella zero per chi veniva punito già era traumatica, perché entravi lì dentro, ti spogliavano totalmente, già entravi in un posto dove c'era questa cella sguarnita, senza niente chiaramente, con le pareti già sporche di sangue, quindi capivi in che posto eri entrato e che tipo di trattamento avresti subito. E questo è un po' il discorso. Adesso sì, c'è la procura di Napoli che ha aperto l'inchiesta, si parla del solito di Mele Marce. Ora immaginate in un carcere, in cui il carcere è la struttura più piramidale, no? Più centrale, è una struttura militare, il carcere è fatto sul modello di una caserma, le guardie sono come, cioè, ognuno risponde al superiore, no? È ovvio, non hanno un grado d'autonomia, così nessun dipendente del carcere ha un grado d'autonomia, c'è il direttore che controlla tutti gli aspetti amministrativi, economici, diciamo disciplinari, il capo delle guardie controlla tutti i fatti di ordine e di trasgressione, quindi ben divisi i compiti e poi insieme si vedono, cioè voglio dire, non è che sfugge niente. Eppure si parla di Mele Marce come se una squadretta organizzata, una squadretta poi, cioè, sapete come funziona, all'inizio di ogni turno in genere in un carcere ci sono diversi, le guardie sono organizzate in diversi turni, no? Cominciamo dalla mattina, la mattina c'è il turno della mattina che è quello giornaliero, inizia la mattina presto, rileva il carcere dopo la conta delle 6, la conta della mattina alle 6, lo fa il turno smontante della notte, quelli che hanno fatto la notte, ovviamente una compagine ridotta rispetto a quelli del giorno, fanno la conta alle 6 di mattina e consegnano i carcerati e il carcere al turno entrante, che è quello giornaliero. Questi iniziano a sono molto più numerosi perché devono organizzare i servizi, no? La colazione, la mensa, devono portare la gente a lavorare in cucina, nelle varie lavorazioni, possono iniziare pure i colloqui, l'aria, eccetera, cioè fanno tutta questa attività. E questo è il turno, diciamo, giornaliero, che inizia la mattina dopo la conta delle 6 e termina dopo la conta delle 3. Alle 3, alle 4 c'è la conta, non a caso questa trasmissione si chiama la conta, perché appunto è nell'orario in cui i detenuti stanno per forza in cella, perché non possono stare in nessun'altra parte, in quanto si effettua, le guardie contano i detenuti per vedere se sono tutti, se qualcuno è morto, se qualcuno è scappato, e quindi stanno tutti in cella. Dopo la conta delle 4 il turno viene preso, entra il turno pomeridiano che arriva fino alla conta della sera alle 22:23, e poi entra il turno che è quello più ridotto, che è quello notturno, e questi sono i turni delle guardie. Quando inizia un turno di una guardia, per esempio quello più numeroso della mattina, c'è un ordine di servizio, allora si dice la guardia il capo delle guardie fa l'ordine, no? La guardia Pinco Pallino e la guardia Pinco Paolo si occupano dei colloqui, quindi sono quelli che vanno a aprire le celle dei colloqui, per esempio con gli avvocati e con i familiari, vanno a prendono l'ordine delle persone che devono fare il colloquio, li vanno a prendere nella propria cella, li portano al colloquio e poi fanno il lavoro, diciamo, quelli sono adibiti al colloqui, poi ci stanno quelli adibiti all'aria, quelli adibiti alla mensa e così via, vengono ripartiti i posti. Ora, se c'è un gruppo di guardie, è così il pomeriggio, la sera, la notte, no? Ogni guardia c'è il suo compito reale, il suo posto di lavoro, è così, no? Di lavoro si fa per dire, insomma, di quello che fa, di quell'attività lì. Ecco, il problema è che come fa un gruppo di guardie, 3, 4, 5, 10, a sfuggire a questa, dove stavano queste? È chiaro che lo sapeva tutto la filiera del comando carcerario di queste squadrette. E vabbè, mo si è aperta l'inchiesta qui a Poggio Reale. Ora, voi direte, di questa storia è molto grossa, ne parlano tante persone, noi ne abbiamo parlato meno degli altri. Perché? Vi domanderete perché. Abbiamo sottovalutato questo problema? No. Il problema è che il punto centrale è che non vogliamo fare due cose, vogliamo parlare molto di carcere, ma non vogliamo evitare di parlarne a sproposito, ossia uno di inseguire i media, la stampa, perché la stampa, un po' per ignoranza, l'abbiamo segnalato più volte, quando dicono, loro dicono tante di quelle castronerie quando vanno in carcere, spaventosa. Perché è un problema, perché il carcere è molto particolare, o lo conosci o non lo conosci, non è che tutti possono parlare di carcere. Dalla parte qui, dall'altra parte ovviamente danno le notizie secondo come arrivano le veline dal ministero, perché non hanno nessuna autonomia di interpretazione. E quindi non ci va di inseguire quello che dicono i media. Questo fatto della cella zero a Poggio Reale, ne è uscita anche un'altra, due ne sono uscite, di inchieste fatte dalle procure sulle squadrette di pestaggio. Però messa così, se inseguiamo questa notizia, casomai si potrebbe leggere tutto l'articolo dell'Espresso, gli articoli precedenti, e vedere e prendersela con quella guardia, quell'altra guardia, significa quasi come se le squadrette esistessero solo in questi due posti, se noi ci concentriamo su questo. Invece non è vero, questi due posti sono emersi, questi due, per tanti motivi, a volte non controllare perché esce fuori, perché una guardia si lascia sfuggire una cosa, a volte si pente pure, è successo per i casi della tortura negli anni 70, si sapeva, tutti lo sapevano che c'era stata, ma nella stampa è venuta quando un torturatore, uno dei capi di tortura, si è pentito in punto di morsa, avendo raggiunto un'età ormai abbastanza considerevole, sapendo che prima o poi raggiunge, non so, l'altro mondo, volendoci arrivare non portandosi questo segreto, ha confessato tutto, ha detto come erano le torture, come venivano fatte, eccetera, è venuto fuori. E quindi tutti adesso dicono sì, negli anni 70 lo Stato, con l'accordo di tutti i partiti, di tutte le strutture, magistratura, polizia, carabinieri, eccetera, ha esercitato la tortura a fini proprio per conoscere le informazioni di coloro che si ribellavano a questo paese, a questo stato di cose, e quindi ha usato la tortura. Bene, però voglio dire, dobbiamo aspettare che ci sia altro, oppure non costruiamo un sistema autonomo nostro di ragionamento collettivo, no? Complessivo, sentendo proprio, noi abbiamo la possibilità di sapere quello che succede, perché parliamo con i detenuti, per esempio, ma ne parliamo non come il giornalista che li va a intervistare, noi ne parliamo da pari a pari, quindi a noi ci dicono tutto quello che non dicono al giornalista, perché il giornalista poi può essere stravolto il pensiero, perché va sulla stampa e può incorrere in qualche denuncia per calunnie, e insomma, invece noi stiamo in mezzo a quelli che prendono le botte, quindi le sappiamo le cose come vanno, come stavamo in mezzo a quelli che subiamo le torture, le sappiamo come vanno le cose e le comunichiamo direttamente così come vengono. Però è chiaro che la stampa fa, i media fanno un altro lavoro. Allora noi non vogliamo rincorrere i media, perché altrimenti daremo l'idea che veramente è un problema di mele marce. Sì, i carceri in Italia sono 206, solo in due carceri è venuto fuori la squadretta, quindi che volete, è l'1%. L'1% non è un grosso problema, la magistratura sta operando, toglieremo queste mele marce e torna tutto tranquillo. Questo è il messaggio che viaggia. Questo messaggio non va appoggiato, perché è falso, perché invece in tutte le carceri, con misure diverse ovviamente, non sono tutti uguali, però il sistema della punizione, della coercizione, della disciplina dura, ferrea, feroce, esiste in tutte le carceri, e quindi è il meccanismo stesso del carcere che devi incrinare, perché il carcere deve tenere il prigioniero e la prigioniera come fossero dei pacchi, ti metto lì e lì stai fermo, quindi ignorando tutte i bisogni, le necessità, e quando il detenuto, la detenuta, collettivamente o anche singolarmente protestano, si ribellano, scatta la misura disciplinare. Questo è il meccanismo che va infranto, altrimenti non va bene. L'altro motivo per cui non parliamo spesso di queste cose è perché il lamentarsi, attenzione, questo è un problema molto importante, è di carattere materiale, politico e anche filosofico, è il centro del discorso. Allora, qual è? Lamentarsi, cioè esprimere lamentele in qualunque settore di questo mondo, significa riprodurre esattamente l'esistente. Il lamentarsi non mette in moto dinamiche di trasformazione. Il lamentarsi significa quanto sono buono, questo vale anche sul piano internazionale, le popolazioni che si lamentano perché vengono occupate, colonizzate, bastonate, non cambieranno mai la loro condizione, perché se tu ti lamenti è come se chiedessi ai poteri che ti opprimono di usare la mano un po' più dolce, di usare il guanto di velluto invece che il pugno di ferro, e quindi rimani nella situazione subalterna, subordinata, chiedi soltanto di essere trattato un po' meno male. Allora, il lamentarsi, dire tutta questa ventata del parlare delle carceri o come stanno male o come poverelle, cioè, non è altro che un tentativo di dire, di reiterare, ribadire la necessità del carcere, soltanto dire, come dicono alcuni, il carcere deve esistere ma deve essere riportato alla legalità, termine quanto mai ridicolo, perché significa soltanto che insomma deve usare la repressione in maniera un po' meno pesante, tutto qua insomma, perché le leggi dicono che se uno protesta subisce una punizione, non deve subire il pestaggio, non dicono questo le leggi, ma la punizione in termini di, per esempio, perdita di tutti i benefici, quindi uscirai più tardi dalla galera, e anche alcune restrizioni, che i regolamenti, le leggi, quindi la legalità prevede che se tu protesti, fai delle proteste un po' rumorose, puoi avere la sospensione dei colloqui, puoi avere la sospensione delle lavorazioni, se lavori, dell'aria, una serie di punizioni. E se voi leggete il regolamento penitenziario, l'ultimo, quello che per quanto c'è scritto è pure bello, perché dice tante belle cose che non vedrete mai in carcere, per esempio l'acqua calda in cella, il bidet, tutte queste cavolate che nessuno ci vedrà mai in cella, però che dice tutte, e dice pure tanti diritti che i carcerati non c'hanno, non ne avranno mai, però poi dice anche la parte disciplinare, che è questa, quindi non è che non c'è la disciplina in carcere legalmente, c'è, certo non c'è la squadretta, però poi quando dice che una protesta va punita, da lì l'isolamento è previsto, per quello è anche fuori legge quel regolamento e tutti i regolamenti che parlano di isolamento dovrebbero essere aboliti, perché poi dall'isolamento io ti isolo e ti assometti in una cella che sta soltanto così isolato ma c'ha tutto, oppure posso metterti in una cella che c'ha sicuro un pezzo di legno per dormire, quindi che stai veramente male, che è sporca, che quando stai solo in una cella che entrano un po' di guardie e ti danno due pizzoni, la cosa è abbastanza, è nelle cose, quindi il problema è questo, il lamentarsi, il dire oddio quanto mi fanno male, oddio quanto mi menano, significa consapevolmente o meno, spesso è inconsapevole questa caduta di capacità critica, spesso è consapevole, per esempio i media, comunque sia, consapevole o meno che sia, riproduce la violenza esistente. Se ti lamenti dei pestaggi non fai altro che reiterare un sistema che produce pestaggi, che assomai chiedi all'autorità, perché il lamento questo chiede, questi pestaggi vengano fatti meno violentemente, meno duramente, che quindi si punisca la squadretta ma non si abolisca l'isolamento, capite qual è il problema? Quindi il lamentarsi è la cosa abbastanza che non fa fare un passo avanti a nessuno, serve a reiterare, a riprodurre la situazione di oppressione esattamente così com'è. Save me, hear me. Bust through your chatterbox, me and your thinking on my mind. By the color. Allora 15:25 ancora Radio Onda Rossa, questa è la conta con trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, attenzione, e quindi ogni altra forma di privazione della libertà, carceri, CIE, OPG, manicomi criminali, quindi appunto OPG e tutte le altre strutture, TSO, cioè tutte le cose, le strutture, le forme repressive che limitano la libertà. E poi entreremo nella seconda parte nel tema repressione, che da un po' di giorni cerchiamo di mettere sotto osservatorio per scoprirne le varie sfaccettature. Dunque veniamo a questo punto che è importante, anche se molto ancora complesso, non è facile spiegarlo in due parole. L'ultimo decreto cosiddetto salvacarsi, quello per il rispetto dei diritti dei detenuti, quello fatto dal precedente governo prima che Crocchè, quello praticamente è che è approvato con decreto legge, cioè un decreto d'urgenza fatto nel dicembre, il decreto legge 146 del 2013, alla fine del 2013, nel dicembre 2013, che è stato convertito in legge proprio pochi giorni prima che scadesse, ossia il 22 febbraio scorso, con legge numero 10 del 2014. Quindi se volete cercarlo, cercate legge numero 10 2014, 22 febbraio 2014, che è la stessa, non è esattamente la stessa del DL, decreto legge 146 del 2013. Perché non è più la stessa cosa? Intanto c'è un aspetto importante, quello del ricorso, il reclamo giudiziale da poter esporre presso il giudice di sorveglianza. Però prima di entrare in questo, diciamo che nel passaggio dal decreto legge alla trasformazione in legge è stato, non sono state fatte molte modifiche, perché poi il governo ha messo la fiducia, quindi altrimenti saltavano i termini. Però una cosa è saltata, che cosa? Che sono stati tolti i detenuti in 4 bis. Il 4 bis è, e qui perché la diciamo, non solo perché da ora in poi coloro che nella condanna hanno un tipo di reato che risponde al 4 bis, il 4 bis è quello che individua i reati di associazione mafiosa, violenza sessuale, cioè tutti i reati cosiddetti quelli efferati, quelli appunto ritenuti di particolare gravità, sociale, quei reati vengono rubricati sotto il 4 bis, che hanno l'allungamento dei termini per le misure alternative, una serie di cose, sono stati tolti da questa legge. Qui scatta un problema, che è quello proprio quando si opera con decreti legge, quindi con decreti d'urgenza, in questioni come quelle carcerarie. Che succede? Il decreto legge come decreto d'urgenza, e l'abbiamo detto più volte, nel momento che viene approvato dal governo, è un atto del governo il decreto, no? Il governo fa un decreto legge d'urgenza e quel decreto opera da subito, dal giorno dopo. Lo fa dal giorno in cui, il giorno dopo che viene approvato dal Consiglio dei Ministri e viene firmato dal Presidente della Repubblica, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale e da quel punto è operativo. Quindi con quel decreto legge 146 del 2013 sono cominciati a uscire, utilizzando quei benefici, alcuni detenuti, quelli che avevano da scontare poco, perché utilizzando soprattutto l'allungamento della liberazione della libertà anticipata, cioè lo sconto di pena, quello, il famoso sconto di pena, i 3 mesi l'anno che sono stati portati a 5 per il periodo che va dal 2010 al 2015. In questi 5 anni chi sta in carcere, fino a oggi, il 2015 ci starà, speriamo nessuno, comunque può scontare oltre i 3 mesi normali che c'erano già prima, 3 mesi di sconto ogni anno di buona condotta, altri 2 mesi, quindi 5 anni di sconto per ogni anno di buona condotta. Chi aveva poco residuo carcerario è uscito, perché era operante da subito. Infatti se non avessero approvato il decreto sarebbe stato un ira di Dio, perché che facevano con quelli già usciti? Bisognava andarli a ricarcerare, era un disastro. In realtà hanno cambiato questa cosa, hanno soltanto tolto il 4 bis dalla possibilità di usufruire di questa legge. Quindi qualcuno del 4 bis che aveva il reato rubricato nel 4 bis è uscito dal carcere. Ora che devono fare? Qui si pone il problema, devono andare a arrestare, a riprendere, no? In realtà questo andrà a finire sotto la Corte di Cassazione, le varie Corte di Cassazione decideranno, però insomma pare, cioè, è chiaro che non dovrebbero, per poiché trattasi di libertà della persona, vale un principio che abbiamo richiamato più volte, che non solo è nel diritto, non solo è nella Costituzione, ma è addirittura nelle fonti del diritto di tutte le società attuali, tutte le società moderne, quello del favor rei, ossia quando c'è un contrasto tra una legge e un'altra, si applica quella che va a favore del reo, del detenuto. In questo caso il decreto legge 146/2013 andava a favore anche del detenuto o della detenuta in 4 bis. La legge successiva, che convalida, che conferma, che ha convertito quel decreto, toglie i benefici al 4 bis. In questo contrasto tra il decreto legge e la legge, quelli che l'hanno già utilizzato si dovrebbe applicare il favor rei, cioè quelli se lo sono preso, sono usciti e lì stanno bene a casa, perché non può essere tolto qualcosa che è stato concesso con la legge precedente. Questo dovrebbe essere questa l'interpretazione, poi possono fare quello che vogliono, però credo che una Cassazione non potrebbe che convalidare il favor rei in questo caso, che si applica proprio perfettamente. Il problema è che invece ci stanno alcuni che ce l'hanno ancora in corso. Quelli che avevano fatto domanda quando c'era il decreto legge, quindi ci sapevano di rientrarci, avevano fatto la domanda con tutti i tempi, le lungaggini del giudice di sorveglianza, perché venisse applicato l'aumento di sconto di pena, ossia di liberazione anticipata, è chiaro che si vedranno bloccati, perché quelli che stanno in corso, a questi non si può applicare il favore perché non hanno ancora usufruito di quel beneficio. Oddio, potranno anche questi, potrebbero ricorrere questi, perché mettiamo che ci siamo due persone in carcere che avevamo tutte e due il 4 bis, mettiamo io e Paolo, prendiamo un nome a caso, allora abbiamo fatto la domanda nello stesso giorno per un motivo, oppure anche giorni separati, per un motivo di burocrazia, la sua, quella di Paolo, è andata in discussione prima del 22 febbraio, prima che la legge venisse convertita con questo cambiamento, e allora è stato e quello è andato, è uscito, perché gli hanno dato questo sconto di pena in più, la liberazione anticipata gli ha permesso di raggiungere fine pena e sta a casa. La mia invece l'avevano messa, per esempio, l'avevano messa nell'ordine del giorno più spostato, mettiamo il 25, quella è stata discussa il 20 febbraio, la mia il 25, 5 giorni di distanza. Nel frattempo la legge ha convertito il decreto legge nella sua interezza, tranne che per il 4 bis, quindi a me non spetta più. Allora è chiaro che io posso ricorrere dicendo: io e Paolo avevamo gli stessi problemi, stessa identità, stesso reato, c'è una disparità di trattamento, a me non l'hanno data, a lui l'hanno data, quindi si può far leva su questa cosa. Per quelli che si trovassero in questa situazione, insomma, c'è la possibilità di, senza grandi aspettative, però c'è la possibilità, esiste questa norma della grave disparità di trattamento tra due persone detenute che si sono viste appunto applicare una disparità di trattamento grazie a una modifica legislativa intervenuta, intercorsa nel mentre scontavano la pena. Questa è una cosa che si può fare, vedremo che cosa succederà. Questa è però quello che volevamo dire di questo. Questo decreto c'ha, tra le altre cose che abbiamo raccontato più volte, ormai lo sapete a memoria, no? Gli sconti, appunto, porta sostanzialmente questo, quello porta da 3 mesi a 5 mesi lo sconto per ogni anno di carcerazione effettuato in carcere, per ovviamente buona condotta, se uno ha tenuto buona condotta, da 3 a 5 mesi, 2 mesi in più per ogni anno di carcerazione dal 2010 ad oggi. L'altro punto centrale è che ha ratificato, ha messo per legge i 18 mesi, quando mancano 18 mesi a fine pena, ossia un anno e mezzo, si può andare a detenzione domiciliare, trasferire dal carcere a detenzione domiciliare. Questi sono i due punti centrali per cui è uscita un po' di gente, si parla di 4-5 mila persone più o meno, siamo sui 61 mila, stavamo su 66 mila, quindi così dicono i dati, e poi va bene. Ovviamente non sono in libertà, sono passati in genere in misura alternativa perché hanno raggiunto i limiti delle misure alternative. Allora, però volevamo, questo articolo presenta una cosa, questo decreto legge poi trasformato in legge, convertito in legge, presenta una novità che non c'è mai stata in questo paese, abbastanza interessante, tutta ancora da oliare, una procedura che può essere d'aiuto ai detenuti, alle detenute, però va capita bene, e siccome è molto farraginosa, poi ci torneremo sopra. Che cos'è? Il titolo è il reclamo giurisdizionale, già la parola è complicata, però che vuol dire? Vuol dire che ciascun detenuto o detenuta può ricorrere al magistrato di sorveglianza, che finora serviva soltanto a concedere o meno le misure alternative per i detenuti, i permessi, la semilibertà, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale, sapete, tutte queste cose le tratta il giudice di sorveglianza. Gli viene attribuita un'altra funzione, quella di ricorrere presso il giudice di sorveglianza per un reclamo giurisdizionale. Che cos'è il reclamo giurisdizionale? È un reclamo che permette di reclamare, che il detenuto o la detenuta fa un reclamo rispetto a qualche cosa che non funziona sull'esecuzione penale. Cioè, quando tu sei condannato vale per i definitivi, chiaramente, no? Per quelli condannati definitivamente, che hanno quindi come interlocutore la magistratura di sorveglianza. Il regolamento, le leggi, in genere i regolamenti, danno una certa dinamica, dicono un certo, descrivono un certo trattamento dell'esecuzione penale, cioè di come devi stare in carcere, di quello che ti spetta, di quello che non ti spetta, appunto i premi, le punizioni e così via, ma anche le cose concrete, da mangiare, da bere, la dose, tutte queste cose qui. Se una di queste cose viene a mancare, si può ricorrere al giudice di sorveglianza, fare un ricorso proprio, no? E va presentato direttamente dal detenuto, appunto, oppure dal suo avvocato, direttamente al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione su quell'istituto, perché sappiamo che quando entri in carcere dice qual è il mio giudice, si dice così, no? Il mio giudice di sorveglianza, ognuno ha un giudice di sorveglianza che sovrintende a quel tipo di popolazione, se il carcere è grosso sono due o tre, se il carcere è piccolo è uno, insomma, comunque ogni detenuto c'ha, o detenuta ha un giudice di sorveglianza a cui fa riferimento per tutte le procedure, appunto dal permesso fino alle altre misure alternative. E adesso ce l'ha anche per questo motivo, cioè può ricorrere, per esempio, non però, attenzione, non per qualcosa rispetto a una misura alternativa non concessa, non vale per quello, vale invece per tutte le altre cose, appunto, anche per questioni di carattere disciplinare. Per esempio, tu hai una punizione per una mancanza che hai fatto, una sanzione disciplinare, ovviamente non le botte, quelle non sono previste, ma appunto può essere l'isolamento, la perdita dei colloqui, del lavoro, eccetera, puoi ricorrere al magistrato di sorveglianza. E per tante altre cose che non rispettano la procedura dell'esecuzione della pena, che è il regolamento penitenziario per quanto attiene alle questioni materiali, appunto aria, salute, cure, tutte queste cose qua, ma anche l'esecuzione della pena è anche quella che, per esempio, dovresti stare nei penali per avere appunto la situazione più aperta. Il detenuto in esecuzione penale dovrebbe essere messo in condizione di lavorare, così tutte queste cose qua, no? Deve poter avere l'accesso alla, se vuole studiare deve poter studiare, iscriversi anche all'università, a qualunque tipo di scuola, fare attività di carattere ricreativo, culturale, poi cioè, tutte queste cose qua. Se queste cose non vengono rispettate, il detenuto può fare prima chiedere alla direzione quello che ti spetta, se non te la dà puoi fare ricorso al magistrato di sorveglianza. Il problema, poi lo vedremo più dettagliatamente, proveremo a vedere tutti i casi in cui si può fare ricorso e che tipo di ricorso fare, proveremo a dare anche diciamo uno schema di come fare un ricorso, altrimenti non deve andare all'avvocato, perdi un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Perché questa cosa si può fare, poi penso in molti carceri può darsi che gli scrivani, se sono abbastanza svegli e attenti, potranno predisporre già uno schema di riferimento. Però il punto centrale, il punto qual è? Attenzione, noi abbiamo visto che già con questo decreto, che ha aumentato i margini della liberazione della libertà anticipata, cioè dello sconto di pena per buona condotta, ha ribadito il fatto che a 18 mesi dalla fine pena può andare in detenzione domiciliare, insomma tutte attività che attengono appunto alla magistratura di sorveglianza. Questi altri ricorsi aggraveranno di lavoro la magistratura di sorveglianza, che è sempre quella, non è stata aumentata di organico. Aumentano gli attributi, le necessità, il lavoro da fare, E questo non è per un problema di carico di lavoro dei giudici di sorveglianza, il problema è che si allungano i termini per avere l'udienza che ti fa uscire dal carcere. Perché il problema qual è del rapporto tra detenuto e magistrato di sorveglianza? È che quando arrivi, per esempio, a maturare la semilibertà o i permessi o l'appunto affidamento in prova ai servizi sociali o la libertà condizionale, qualunque di questi benefici, uno quando ha raggiunto quel limite fa l'istanza e la presenta al direttore del carcere, che poi la verifica e la manda a giudice di sorveglianza. In alcune situazioni, per esempio qui a Roma, prima di discutere ti mettono in graduatoria e passano mesi e mesi, 6 mesi, 8 mesi, in qualche caso anche un anno. Ora è ovvio che le misure alternative più sono rapide, perché tu hai raggiunto la semilibertà oggi, te la danno tra un anno, nel frattempo hai finito la pena o comunque stai lì, insomma, e quindi il tempo, diciamo, per esaminare queste pratiche si allunga enormemente e crea dei grossi problemi. Ora, l'aumento di questa possibilità, no, di intervenire del reclamo giurisdizionale verso il giudice di sorveglianza aumenta il carico di lavoro dei giudici e quindi allungherà ancora i tempi per avere appunto le auspicate misure alternative, ed è un problema perché anche se è un interessante spazio in più che possono avere i detenuti, però insomma francamente può non servire. Comunque, in soldoni, per poi ci torneremo, il reclamo giurisdizionale è il reclamo che fa il singolo detenuto o detenuta al magistrato di sorveglianza, segnalandogli ciò che non funziona del trattamento dell'esecuzione penale, del trattamento penale, secondo appunto le leggi che sovrintendono al trattamento che un detenuto deve avere durante l'esecuzione della propria condanna. Quindi ogni cosa che non va può essere oggetto di questo reclamo giurisdizionale verso il giudice di sorveglianza. Ciò ovviamente ingolferà il lavoro, però ovviamente questa l'hanno fatta e questo sarà un problema in più. E rieccoci in diretta, 15:44. Allora, riprendiamo il discorso, che sarà lunghissimo perché è complesso, molto complesso, guardare da tutti i punti di vista tutte le sfaccettature del problema che ha il titolo repressione. Cioè, tutto quello che tutto quel sistema enorme, un apparato mastodontico che tra l'altro anche un costo enorme, di cui gli stati attuali moderni, parliamo di questi, reprimono ogni comportamento che trasgredisce una legge, una norma, o che secondo loro mette in discussione l'ordine pubblico o l'ordine esistente. Ecco, questa cosa c'è sempre stata, questo apparato repressivo per punire, colpire coloro che non si comportano secondo l'ordine o secondo le leggi. Ora, intanto bisogna fare una distinzione. Si parla di legalità, no? Legalità è un termine molto vago ormai, che non è altro che l'insieme delle leggi. L'insieme delle leggi esistenti in un certo periodo storico, perché le leggi cambiano, come sapete, no? Di volta in volta, basta che il Parlamento fa una legge, quella legalità del giorno prima, il giorno dopo è un'altra, perché è un insieme di leggi che definiscono un modo di comportamento cosiddetto legale rispetto a un modo di comportamento cosiddetto illegale, che è quello che viola o trasgredisce alcune o una sola di queste leggi. Siccome le leggi cambiano di volta in volta in un paese, e da paese a paese sono diversi, è chiaro che il sistema, la cosiddetta legalità, è un sistema molto talmente elastico da risultare vago. Vago è il termine esatto, vago, indefinito, è più un attributo filosofico, ideologico, più che altro ideologico. In realtà la legalità, per chi la usa in termini, come dire, dobbiamo far rispettare la legalità, sia esso un questurino, un carabiniere, una guardia o un magistrato o un uomo di governo, una donna di governo, non è altro che rispettare l'ordine esistente. Ora, il margine tra ordine e legalità è molto sottile, no? Perché sono la stessa cosa? Domanda. Se fate questa domanda a un fine giurista, che non ha tessera di partito, non deve difendere niente, vi dice no, non è la stessa cosa. L'ordine esistente è lo status quo, lo stato di fatto, che è dovuto spesso dalla riproduzione dei rapporti esistenti. Che ne so, per esempio, tutti sappiamo che stiamo qui a Roma, nei localetti, piccoli negozi, eccetera, vige il lavoro in nero. No? Un ragazzo cerca lavoro, va in un bar, in un locale, in un pub, in un posto, dice vorrei lavorare, e quello dice vabbè, vieni, te do 50 euro a serata o quello che sia, insomma, ecco, è un lavoro a nero. Ora, quello non è nella legalità, la legge non prevede il lavoro al nero, ovviamente, no? Però è nella norma, è nell'ordine. Questo per dare un esempio. Quindi l'ordine esistente è una cosa, la legalità è un'altra. Però in realtà quelli che parlano di legalità intendono l'ordine sociale esistente. Per esempio, che quando c'è uno sciopero, una lotta di due soggetti privati, un gruppo di lavoratori e i proprietari di quella fabbrica, e confliggono perché quelli vorrebbero, che insomma, meno ore, più soldi, meno fatica, e quelli, i padroni invece, vorrebbero più fatica, meno soldi, più orari, eccetera. Ed è un conflitto normale. La legge non dice che uno dei due ha ragione per definizione, dice che il compito del pubblico, quindi dell'istituzione, sarebbe di mediare dentro quel conflitto. Così è scritto nei testi sacri. Ma secondo voi avviene così? Ovviamente no. Ovviamente se vedete che c'è un picchetto, uno sciopero, una manifestazione davanti a un posto di lavoro, dopo un po' arriva la forza pubblica che si schiera dalla parte del padrone, del proprietario di quella fabbrica, sgombera il picchetto, manda via la gente perché bisogna far riprendere la produzione esatta. Ora, quella non è legalità, non è scritto da nessuna parte che in due privati, quelli sono due soggetti privati, sono il proprietario di una fabbrica, il padrone e i lavoratori sono due soggetti privati, nessuno dei due è un'istituzione dello Stato. Tuttavia le forze armate dello Stato si schierano chiaramente da una parte, da sempre sappiamo che la parte è quella del padrone, del proprietario. Perché quello? Perché la legalità non dice, non c'è scritto adesso, anzi la Costituzione dice libertà di sciopero, libertà di, dice tante belle parole, però l'ordine esistente è che le fabbriche devono produrre per la ricchezza nazionale, le fabbriche devono produrre, quindi i lavoratori devono lavorare, e se scioperano non devono impedire il funzionamento della fabbrica, non devono impedire che il padrone vada con un furgoncino a prendersi 20 grumiri e li porta dentro la fabbrica perché legalmente, formalmente fa un'azione illegale, perché la legge dice che quella è un'attività antisindacale, quindi non andrebbe fatta, ma l'ordine dice che va bene farlo. Allora, se voi trovate in una situazione, e qualcuno di voi si sarà trovato, in cui c'è questo conflitto tra lavoratori e padroni e proprietari della fabbrica, del bar, di quello che sia, quelli scioperano, quindi il padrone non lavora, la fabbrica, quel commercio non lavora. Il padrone prende il furgoncino, succede spesso, va in un posto dove trovi disoccupati affamati di lavoro, di soldi, ne carica una ventina e li porta a lavorare al nero, senza contratto, senza niente, tutto illegale. I lavoratori ovviamente si frammettono tra questi crumiri, a volte anche inconsapevoli, però ci sono gente presa e dicono va, venire a fare una giornata, quelli a fame gli porta gli esce dalle orbite, quindi è chiaro dicono di sì. I lavoratori si oppongono all'ingresso di questi crumiri, quindi in quel caso i lavoratori fanno il picchetto, fanno un'azione per il rispetto della legge, che dice è vietato fare attività antisciopero, è vietato fare lavoro al nero, eccetera. Però poi il padrone chiama la polizia e la polizia fa sgombrare il picchetto e fa entrare i crumiri. Qual è la differenza tra legalità e ordine sociale? Enorme, enorme. Tuttavia, come vedete, quasi sempre l'ordine sociale, non economico sociale, tutto, vabbè, sociale raccoglie tutto, si sovrappone al termine di legalità. Oggi quando si parla di legalità si intende sostanzialmente ordine sociale. E per questo motivo, ragionate attentamente quando avete un quarto d'ora di tempo e la testa libera a ragionare bene, e poi potrete trovare nella vostra vita, nelle vostre conoscenze, nelle vostre esperienze, mille episodi in cui l'ordine sociale non coincide con quello legale. Tuttavia, questi due termini vengono sovrapposti e gestiti dai media, dagli governanti, dai magistrati, dalle cose, come se fosse appunto un tutt'uno. Allora, tutti questi che abbiamo detto, no? Stato, padroni, proprietari, governanti, cioè interessa che l'ordine rimanga tale e quale. La legalità, l'insieme delle leggi, può anche mutare a volte per problemi. Per esempio, qui c'è, no? Adesso tutta la vicenda, ne abbiamo parlato, la vicenda della tortura. La comunità internazionale, perché bisogna pure far finta di essere civili, all'ONU ci stanno tutti i paesi del mondo, tutti gli stati del mondo si sono messi lì, qualche giurista ha detto ma siamo nel 2000, oltre il 2000, il mondo civile non può contemplare la tortura che è una cosa medievale, antica, cioè, perfetto, facciamo un provvedimento, si invitano tutti gli stati a fare una legge contro la tortura fatta dai pubblici ufficiali, perché loro fanno la tortura. Quando tieni una persona privata della libertà in tuo pieno possesso, così la guardia quando arresta uno e lo sottoponi a malversazione, cioè per estrarne, sostanzialmente per estrarne confessioni, quella lì è tortura e quindi è un reato e non viene punito pesantemente, cioè. Si invitano tutti gli stati a fare questa legge, tira e molla, qualcuno l'ha messa, molti alla fine l'hanno messa, in Italia non si vuole mettere. Poi sono arrivati a questo pateraccio, questo compromesso in cui si mette, sì, però non è per i pubblici ufficiali ma per te, tutto manuale. Ora, vabbè, comunque sia, quella legge c'è. Poi, la legge però, boh, c'è sta legge, quando verrà, non ancora definita, comunque fa schifo perché non serve a niente. In molti paesi c'è comunque questa legge contro la tortura, però voi pensate che in quei paesi, in alcuni particolari momenti in cui il comportamento di alcune persone mette in discussione non tanto la legalità quanto l'ordine esistente, economico, sociale esistente, non venga usata forme di pressione, quindi di tortura, per estorcere conoscenze, eccetera, eccetera? È chiaro che sì. Quindi non è che la legge di per sé modifica tutto l'apparato statale, economico e sociale, che è teso a mantenere l'ordine esistente. Allora, la conclusione di questo ragionamento qual è? A cosa serve oggi chiedere delle leggi che permettano di fare qualcosa o di non fare, di ampliare leggi che diano più spazio a chi vuole fare i propri conflitti sociali, mettere in luce le proprie necessità, i propri bisogni con manifestazioni? A che serve chiedere questa cosa se poi l'aggressione, la repressione di quel movimento, di quel conflitto, di quella lotta avverranno non in funzione del fatto che esistono o non esistono leggi, ma in funzione del fatto che quell'ordine in quel particolare momento, spesso può essere un momento emergenziale di critica, di crisi, per esempio come adesso, di difficoltà economiche, viene messa in discussione da quel comportamento, e quindi la repressione arriva pesantemente, non perché c'è una legge o un'altra, ma perché in quel momento l'ordine, secondo i potenti, secondo i poteri, secondo quelli che traggono ricchezza dall'andamento del sistema esistente, si vedono messi in discussione. Questo è il problema. Il mantenimento dell'ordine esistente è una necessità per quelli che traggono privilegi, profitti, ricchezza, benessere da questo ordine esistente. È chiaro che a volte le leggi in genere, la legalità difende quest'ordine, però a volte per problemi internazionali, per problemi di immagine, per pressioni che vengono dal basso, no? Le pressioni vengono dal basso, ricordiamo tutti lo statuto dei lavoratori, che è stata una conquista, anche quella mediata, perché si chiedeva molto di più, si voleva molto di più, comunque è stata una conquista, e difatti negli ultimi 20 anni ha avuto uno smantellamento successivo, perché impediva quello statuto dei lavoratori, quella legge, una legge dello Stato, impediva ai padroni di fare un po' come volevano con i lavoratori, licenziarli, punirli, spostarli, fare come gli pareva per avere maggiori vantaggi economici i padroni. Quindi non l'hanno utilizzata manco quando valeva, e poi i governanti, per andare incontro agli interessi di questi padroni, l'hanno via via smantellata, e oggi con questo governo la smantelleranno del tutto, o perlomeno queste sono le previsioni. Poi dipende sempre dal conflitto di classe, le cose non sono mai date, questa è un po' come una partita di pallone, si fa in due, ci sta quelli che attaccano e quelli che si difendono, a volte la difesa e l'attacco possono invertirsi, no? Appunto come una partita di pallone, adesso attaccano loro, però insomma questa, la difesa può pure diventare un attacco. Allora, quindi come vedete il problema non è tanto importante muoversi sul terreno della legalità per ampliare le possibilità che dà la legge a esercitare comportamenti collettivi o anche singoli più validi, ma quanto a intervenire immediatamente a difendere, a tutelare, a sostenere coloro che vengono colpiti dalla repressione, coloro che hanno messo in discussione l'ordine esistente con i loro comportamenti. Quelli vanno sostenuti, difesi, con loro va solidarizzato, perché solo con questo sostegno, con questo appoggio, è possibile diminuire gli effetti della repressione. La repressione è un po' come con la droga, no? Bisogna più che altro fare una limitazione del danno, una riduzione del danno, più che una abolizione. Abolire la repressione è pressoché impossibile, ossia è possibilissimo, però si abolirà la repressione quando si abolisce l'interesse a chi serve la repressione. Abbiamo detto, serve al sistema, ai ricchi, ai potenti, ai ricchi, ai padroni, ai capitalisti, per mantenere le ricchezze e i privilegi che hanno, e è lo Stato che garantisce che quest'ordine venga mantenuto, in cui i ricchi rimangono ricchi e i poveri rimangono poveri, i disgraziati rimangono disgraziati. Questo è l'ordine esistente, perché se non ci stanno i disgraziati e i poveri, chi va a lavorare a 4 euro l'ora anche a 3 euro l'ora, le ultime notizie danno di 3 euro e mezzo l'ora si lavora anche in questa città, tanto per essere chiaro. Ecco, se quello non fosse affamato non andrebbe a lavorare a 3 euro e mezzo l'ora, ovvio, no? Quindi è necessario che ci siano gli affamati, i poveri, quelli appena usciti dal carcere, che andrebbero a lavorare anche a 1 euro l'ora, pur di avere appunto due soldi in mano. Questo è l'ordine esistente, che appunto serve ai padroni, ai ricchi, ai privilegiati, e lo Stato si garantisce di mantenerlo. Ora, chiedere che loro facciano una legge perché quest'ordine venga messo in discussione, nella migliore delle ipotesi, è ingenuità. Può darsi pure che sia stupidità, perché chi sprechi energie per chiedere qualcosa che non esiste nel fatto? Tu devi contrastare un percorso repressivo che tende a punire e sottomettere ogni comportamento diverso, ma lo fai solo col sostegno. Se sostieni coloro che sono puniti perché si sono comportati in maniera fuori dalla legalità, fuori dall'ordine, è chiaro che gli effetti di questa repressione saranno ridotti, e che è possibile che queste azioni di rottura dell'ordine si moltiplicano. È solo là, la modificazione dell'ordine avviene solo con la proliferazione delle attività che mettono in discussione l'ordine esistente. Allora, siamo in chiusura, mancano 2 secondi alle 16, scattano adesso, quindi potete rimettere gli orologi, ma non è un orologio che abbiamo qui e non garantisco.